giubbetto, il signore parto col giubbetto. Il giubbetto, altri proiettili, avanti! Baroni, padroni, pompieri, aspiranti dirigenti, topi di sezione, oscuri burocrati, gente con la linea in tasca. Forse fra qualche giorno ce ne andremo e proverete a dimenticare tornando con bacheche, circolari, processo democratico, giornali, delegati e mozioni. Ma non rompete i coglioni. Direte era un fuoco di paglia, una scura marmaglia senza proposizioni. Ma non rompete i coglioni. Ma tutto questo non è stato invano. Noi non dimentichiamo. Per il vostro potere fondato sulla merda, per il vostro squallore odioso, sporco, brutto, pagherete caro, pagherete tutto. In occasione del 36esimo compleanno di Radio Onda Rossa, Volturno Occupato, Radio Onda Rossa, Controcorrente presentano sabato 25 maggio, ex cinema Volturno Occupato, via Volturno 37. Scemi, il rifiuto di una generazione. Dalle ore 21, Tano D'Amico, percorso fotografico sul 77. A seguire, Revolution, estratto teatrale a cura della compagnia Controcorrente. Talk show, l'oscura marmaglia, con reading del libro di Dario Pacino, materiali video e audio di repertorio. Dalle ore 23, DJ set, 77 sound, a cura di Scarf e Sista, sottoscrizione 5 euro e se magna pure, Volturno Occupato, via Volturno 37, stazione Termini, sabato 25 maggio. Scemi, il rifiuto di una generazione. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia.